Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di giovedì 7 agosto 2025 di Zardins Magnetics, il programma autogestito dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste. Andiamo subito con quella che è la sigla del nostro programma, Retribution dei Behind Enemy Lines. Benissimo, allora ci ascoltiamo direttamente anche questo gruppo dei Paesi Baschi, Baldin Badà, col pezzo omonimo. We'll be right back. Gaza non è un'ingiustizia a fianco di altre, bensì l'orrore che le contiene e le compendia tutte. Il genocidio in corso ricapitola la violenza fondativa di ogni Stato e ci mostra in diretta l'accumulazione originaria del capitale, l'esproprio coloniale della terra, la guerra alla sussistenza, la violenza sistematica contro le donne e i bambini, la streghizzazione dei refusnik e dei non allineati, lo sviluppo delle tecnoscienze, l'esperimento permanente sul materiale umano. Gaza è il simbolo concreto di tutte le oppressioni, ma anche l'equivalente generale delle resistenze. È la vita che si sostiene con il niente che trova. È lotta armata, sumud, memoria storica e poesie di lancinante bellezza. Vogliamo lottare contro il razzismo di Stato? Gaza. Vogliamo contrastare l'economia di guerra e la militarizzazione sociale? Gaza. Non vogliamo separare emancipazione femminile e resistenza anticoloniale? Gaza. Vogliamo metterci di traverso rispetto alla furia estrattivista ed ecocida del capitalismo? Gaza. Vogliamo combattere la tortura del carcere e il carcere come tortura, solidarizzando con le compagne e i compagni prigionieri? Gaza. Vogliamo porci alle Smart City e alla società dei varchi? Gaza. Ci battiamo per un'agricoltura contadina contro le nuove enclosure genetiche e digitali? Gaza. Siamo inorriditi dal cibo in laboratorio e dalla riproduzione artificiale dell'umano? Gaza. Cerchiamo un nesso tra la profilazione di massa e lo sterminio algoritmico? Gaza. Gaza è il nome proprio della rabbia, del bisogno di riscatto, del desiderio di giustizia. Invoca amore e chiede vendetta. Sì, un saluto anche da parte mia. Quello che ho letto è alcuni pezzi, insomma, di un articolo, di un contributo dal Fanale Oscuro, pubblicato sul Rovescio, che si intitola Il nome proprio, che vi invito ad andare a leggere per intero. Insomma, è molto, molto bello, molto ben scritto e secondo me tocca tutti i punti importanti che bisogna non dimenticare, insomma, tenere insieme. E sì, iniziamo la puntata di oggi di Zerdins Magnetics proprio con questa, diciamo, questo omaggio, appello, non so come definirlo, per la Palestina e per Gaza. Durante la serata parleremo di varie cose. E appunto, per chi ha ricevuto un po' così il promo, diciamo, via mail, parleremo di agricoltura, di occupazione, e appunto abbiamo già iniziato a parlando di Gaza. Poi vedremo, insomma, anche con qualche altro elemento sulla Cisgiordania, in realtà. Poi parleremo di colonialismo, di insediamento e di predazione, con anche avvalendoci anche di un testo di un compagno navajo. E poi parleremo di estrattivismo ed ecocidio, facendo così un riferimento al progetto Mattei e ai grandi colossi dell'estrattivismo, degli armamenti e dell'agroindustria che appunto stanno arrivando a chiaramente chiamati dallo Stato italiano, stanno arrivando a mettere le loro manacce su quello che resta anche, diciamo, delle comunità native in Africa, nei vari stati dell'Africa. E niente, magari mettiamo un po' di musica e poi partiamo con gli argomenti. We'll be right back. stiamo ascoltando Hogar dei Collision dal loro album Collision. Ascolteremo anche in sottofondo. Allora, qualche giorno fa è successa questa cosa a Hebron, in Cisgiordania. È successo che le forze militari israeliane hanno effettuato un raid contro l'unità di moltiplicazione dei semi della banca dei semi dell'Unione dei Comitati di Lavoro Agricolo palestinesi. Praticamente l'esercito ha utilizzato bulldozer, macchinari pesanti, ha distrutto i magazzini di stoccaggio e le infrastrutture dell'unità, dove erano conservati attrezzature essenziali, materiali per le sementi e strumenti per la riproduzione dei semi autoctoni. E questa distruzione è stata, sto leggendo da un comunicato di questo gruppo, appunto, di questa organizzazione palestinese, la distruzione è stata effettuata senza preavviso, sotto protezione militare, e costituisce un duro colpo agli sforzi palestinesi per preservare la biodiversità locale e garantire la sovranità alimentare. Questo deliberato attacco a una struttura agricola civile è un attacco strategico alle fondamenta stesse della resilienza palestinese. La Banca dei Semi ha svolto un ruolo fondamentale nella salvaguardia delle varietà dei semi tradizionali e nell'emancipazione dei piccoli agricoltori attraverso la riproduzione e lo scambio di semi locali. L'attacco avviene in un contesto di crescente violenza da parte dei coloni, accaparramento di terre e sforzi sistematici da parte dell'occupazione israeliana per smantellare i mezzi di sussistenza delle comunità palestinesi. Distruggere una banca nazionale di semi è un atto di cancellazione volto a recidere i legami generazionali tra gli agricoltori e la loro terra. E poi, appunto, questa Unione dei Comitati di Lavoro Agricolo chiede a tutti i partner internazionali, ai difensori dei diritti umani e ai movimenti di solidarietà, di denunciare con forza questo crimine e esortano, insomma, un intervento internazionale immediato per chiamare l'occupazione israeliana a rispondere delle sue ripetute violazioni dei diritti agricoli, ambientali e umani. Questo Unione dei Comitati di Lavoro Agricolo è un'organizzazione che fa parte della Via Campesina, che è praticamente un coordinamento europeo e non solo europeo di agricoltori e appunto agricoltori che sono contro l'agroindustria, che cercano di praticare un'agricoltura, l'agricoltura dei nativi, appunto un'agricoltura a misura, diciamo, umana. E questa questione qua della distruzione della banca dei semi non è assolutamente da sottovalutare, cioè è molto grave, ma è molto importante, perché rientra in questo progetto di distruzione totale che ha Israele. Difatti, in una trasmissione, tra l'altro, che è andata in onda su Radio Eustachio qualche mese fa, ne avevamo già parlato, e proprio un compagno dell'Associazione Rurale Italiana, che fa parte anche questa associazione della Via Campesina, che era appena tornato da un viaggio in Cisgiordania a fine 2024, appunto questo compagno, proprio avendo visto anche coi suoi occhi, insomma, quello che succede, aveva sviluppato questa riflessione, cioè dicendo che Israele non si limita al genocidio automatizzato della popolazione, quindi non solo vuole sterminare la popolazione, ma vuole anche fare tabula rasa di una parte del pianeta, la Palestina appunto, renderla inabitabile sul lungo periodo, per fare tabula rasa della tradizione nativa della gestione dei territori, e quindi distruggere totalmente, cioè anche la memoria, diciamo, dell'insediamento naturale delle popolazioni in Palestina, no? Quindi questo discorso, appunto, di attaccare l'autosufficienza, insomma, l'autoproduzione agricola, si inserisce in questo progetto genocida a livello spaziale. Ma tra l'altro voglio dire un'altra cosa: questa roba della sovranità alimentare, no? I compagni palestinesi dell'Unione dei Comitati di Lavoro Agricolo parlano di sovranità alimentare, e che appunto non è la sovranità alimentare di quegli stronzi che stanno al governo, che usano queste parole, cioè sono abituati quelli del governo italiano, come pure quelli dello Stato di Israele, sono abituati a questa neolingua per cui parlano di sovranità alimentare quando vanno a colonizzare le risorse, i territori. Parlano di producono il piano Mattei e parlano di piano non predatorio, e fanno la guerra e parlano di sicurezza. Quindi questa neolingua che snatura le parole e i significati delle parole. In realtà, appunto, per sovranità alimentare si intende l'atto di difendere il proprio rapporto con l'autoproduzione per praticare l'autodeterminazione. Quindi è un concetto di fondamentale importanza, ma va inquadrato appunto nel suo significato preciso. Un'altra cosa che ci tengo a dire relativamente a questo discorso della distruzione, diciamo, del territorio, del rendere invivibile il territorio, anche questo mito, ne abbiamo già parlato anche di questo, ma non si finisce mai di parlarne, questo mito del far fiorire il deserto. In verità questo compagno dell'Ari appunto ha detto che c'è questi appezzamenti, insomma, gestiti dai coloni, sono una landa, lui l'ha definito, sono lande desolate, cioè sono delle monoculture mostruose, e ad esempio monoculture di mango o di palma da dattero, oppure degli allevamenti che contengono fino a 10.000 animali, quindi una roba fuori controllo, ipercontrollata nel modo tecnologico che utilizzano loro, ma totalmente disumana. E lui diceva che, ad esempio, se si passa da questi grandissimi estensioni occupate dai coloni, gestite dai coloni, a invece l'agricoltura tradizionale palestinese, si vede subito che la soluzione è un'altra. Ad esempio, gli allevamenti sono bradi, allo stato brado, quindi ci sono piccole mandrie o piccole, comunque, gruppi di animali che si muovono sul territorio, e ad esempio non ci sono monoculture, cioè viene dove i palestinesi possono coltivare la loro terra, cercano di mescolare ad esempio l'orticoltura con la palma da dattero, quindi di fare di intramezzare le colture. E questo, cioè, a me ha colpito questa descrizione che faceva il compagno, perché appunto rovesciava il discorso del deserto fiorito. Non è il deserto fiorito, è un'industria, diciamo, agricola a cielo aperto, se non è nelle serre, perché appunto sono esperti nella coltivazione nelle serre, gli israeliani, che toglie completamente naturalità, ecco, alle piante, insomma, all'agricoltura, e proprio aliena, diciamo, anche il discorso di cibo, no? E cioè di cibo che ci si autoproduce. E questo, e niente, ancora un po' di musica e poi proseguiamo. ¿Qué más está? ¿Qué más está? Sí, puedo, pero no quiero dejar de fumar. Pero yo quiero volar, volar. Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad. Ya está bien. quiero volar y volar. Y desde, desde lo alto de esta puta ciudad. Questi erano gli Agua Bendita con Volar. Ascoltiamo ancora un po' di loro dal loro album Amen. Un saluto a tutti e a tutte, anche da parte mia, solo per informarvi tutti e tutte di questo appuntamento che ci sarà, che è stato lanciato oggi e per sabato 9 agosto a Trieste. A Gaza Israele usa la fame come arma di genocidio, spezziamo il silenzio complice, facciamo rumore. Presidio in solidarietà Gaza, 9 agosto sabato alle ore 18 in piazza Goldoni a Trieste. Portate pentole, coperchi, fischietti, campanelli, tamburi, voci, mani. Ecco, cioè la locandina la trovate per il momento sui social e rilanciamo anche noi questo importante iniziativa, questa iniziativa importante per la serata di sabato 9 agosto a Trieste. Volevo con questo momento che ho preso così la voce, la linea. Volevo anche informare chi ci ascolta da fuori invece, che comunque c'è qualcuno che ci ascolta anche da fuori, una cosa importante che succede invece al porto di Genova, domani quindi venerdì 8 agosto, ore 8, presidio a Ponte Etiopia. Leggo anche qui, siamo sui social perché sono robe successe da poco, così davvero non ci sia i social del CALP, Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova, così davvero non ci siamo, siamo appena usciti da un incontro che a nostro avviso è stato utile e chiaro. Proprio mentre discutevamo con le autorità, con fiducia e determinazione, insieme ai nostri compagni e compagne, a bordo della Bari Yanbu, attraccata da poco al terminal GMT e in attesa di caricare forse il cannone 8 Melara, i lavoratori saliti a bordo hanno trovato la nave carica, come raramente accaduto, sistemi d'arma, esplosivi, munizioni. A seguito delle foto e dei video scattati, gli ufficiali hanno fatto intervenire gli agenti della Delta già presente sul posto, che è una compagnia di portuale già presente sul posto per far cancellare i filmati, ma non sono riusciti completamente nel loro intento. Le parole iniziano a non bastare più. Ci vediamo domani mattina, venerdì, alle ore 8 in presidio a Ponte Etiopia. Vedremo lì come andrà. Se volevate farci arrabbiare, ci siete riusciti. E segue con le foto recuperate, diciamo, di questi mezzi blindati e nonché container identificati come appunto trasporto di armi. C'è anche un articolo nel frattempo insomma sulla stampa mainstream. Genova: i portuali non caricheranno il cannone Leonardo sulla nave saudita piena di armamenti, ed è il Fatto Quotidiano. Omar Suleiman con il pezzo Le Jani. Sì, ritorniamo in voce. Allora, arriviamo, diciamo, a parlare un po' del Piano Mattei, come facciamo periodicamente. Abbiamo già detto che con la presidenza del Consiglio dei Ministri e il governo italiano, appunto, individuano per questo Piano Mattei diversi ambiti di intervento, cioè l'agri-food, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, le infrastrutture fisiche e digitali, e poi anche tutta una parte che riguarda, diciamo, la cultura, le scienze sociali, con riferimenti particolari alla religione, all'estremismo, alla radicalizzazione, all'integrazione. Quindi anche qui, anche riguardo alle scienze sociali, in questa chiave. E queste sono, diciamo, le direttrici di intervento che individuano, e il target sono questi diversi paesi dell'Africa: l'Algeria, l'Angola, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Mauritania, Marocco, Mozambico, Repubblica del Congo, Senegal, Tanzania, Tunisia, eccetera. Tutti paesi sicuri, come potete sentire. E cosa ci dicono direttamente dalla viva voce dei governanti? Rispetto all'Algeria, ad esempio, il Piano Mattei è un progetto strategico del governo, dentro cui c'è un'idea di cooperazione e sviluppo per l'Africa. In questo quadro l'alta formazione, sì, tra parentesi, il MIUR, il Ministero dell'Università, fa man bassa di queste cose, naturalmente. In questo quadro l'alta formazione è un pilastro della strategia. Puntiamo a formare classi dirigenti, fornendo ai giovani africani gli strumenti per partecipare attivamente al progresso e alla crescita dei loro paesi. Con l'Algeria ci lega un rapporto storico e profondo che questo accordo rinnova e rafforza. Questa visita, appunto, della Meloni è un'occasione per incontrare Eni, Bonifiche Ferraresi e Leonardo, attive in Algeria e impegnate in progetti di alta formazione e ricerca, appunto. Tutti questi colossi che sono già presenti e che ora acquisiranno con questo piano ulteriori risorse. Ma è proprio diciamo un dirigente, cioè l'amministratore delegato di Eni, che diciamo svela, tra virgolette, il vero volto del Piano Mattei, cioè al di là di queste parole di cooperazione non predatoria, bla bla. Cioè lui dice, letteralmente, loro hanno l'energia, noi no. Dobbiamo aprirci all'Africa, dobbiamo essere i loro compagni di viaggio e aiutarli a svilupparsi. E la Meloni dice anche: oggi abbiamo un problema di approvvigionamento energetico in Europa e l'Africa è un produttore enorme di energia. Se aiutiamo l'Africa a produrre energia per portarla in Europa, possiamo risolvere insieme molti problemi. Cioè le migrazioni. Infatti la merce di scambio, una delle merci di scambio, è anche questa cosa di fare arrivare più gas dall'Africa e meno migranti, quindi fare dei patti, diciamo, di polizia e militarizzazione interna contro le migrazioni. Ma vediamo che cosa, prendendo così il Mozambico, qualche parola sul Mozambico e sulla Tunisia relativamente, appunto, a questo discorso dell'andare a creare, a industrializzare, diciamo, a creare delle infrastrutture industriali in quei paesi lì, secondo loro per farli sviluppare in maniera moderna, eccetera, e dargli maggiori risorse. Allora, il Mozambico è già trasformato nell'ultima grande frontiera estrattiva del continente africano. Praticamente il 90% della produzione di gas è destinata all'export, mentre ci sono 20 milioni di abitanti mozambicani che non hanno nemmeno accesso all'energia, e comunque meno della metà del ricavato della vendita del gas resta, insomma, nel paese. Tutto il resto fa profitto, appunto, per i colonizzatori. Inoltre, diciamo, dal punto di vista sociale, questa espansione fuori controllo abominevole dell'industria del gas è diventata una maledizione per la regione che si chiama Capo Delgado, che è la regione dove appunto ci sono queste grandissime infrastrutture per l'estrazione del gas e per la distribuzione del gas. Difatti in questo territorio migliaia di persone sono state costrette a lasciare i loro villaggi e le loro terre e a fare spazio alle infrastrutture dell'industria. Inoltre ampi tratti di mare sono stati definiti off limits, un po' come, se vi ricordate, anche a Gaza, no? Ci succede questo, cioè c'è il divieto di pesca, quindi la gente muore di fame ma non può nemmeno pescare. E vi ricordate che davanti il mare, davanti a Gaza, l'ENI appunto sta vedendo di estrarre il gas anche lì. E allora in questa maniera qua, quindi deportati diciamo dalle loro terre, dai loro villaggi, impossibilitati anche ad avere fonti di sostentamento, ci sono continue insurrezioni insomma da parte della popolazione, insurrezioni che vengono così represse duramente dai militari. Specificamente Capo Delgado è occupata militarmente dall'esercito mozambicano, da quello ruandese, però è presente anche un contingente militare delle forze armate europee, quindi ci sono tre diciamo presenze di eserciti. E arriviamo alla Tunisia. La Tunisia è l'ENI in Tunisia è presente dal 61. E la Tunisia occupa una posizione importante perché è attraversata da un gasdotto Transmed che è stato costruito e gestito da ENI. E questo gasdotto trasporta il gas algerino fino in Italia. E, diciamo, la regione maggiormente interessata da questa presenza del gasdotto è la regione di Tataouine, che si trova nell'estremo sud del paese al confine con l'Algeria e la Libia. Anche qui questa regione è una delle più marginalizzate della Tunisia, con tassi di povertà e disoccupazione giovanile tra i più alti del paese, e anche qui ci sono continue insurrezioni. Dal 2017 specificamente la popolazione della regione è insorta contro le compagnie petrolifere, in primo luogo ENI, arrivando a bloccare la produzione anche per diverse settimane. Anche qui la risposta del governo tunisino è la militarizzazione spietata dell'area. Non della Nigeria non stiamo neanche a dire, perché è storia forse è più conosciuta, quello che succede in Nigeria, la distruzione gravissima dell'ambiente. Parlano di 110.000 barili di petrolio versati in fiumi, paludi, foreste, e il 90% di questi barili di petrolio, guarda caso, provengono dalle compagnie petrolifere. Quindi sì, questo insomma è il volto autentico del piano Mattei, al di là della neolingua appunto di cui parlavamo prima. Tra l'altro si diceva di questi colossi che entrano lì, sì, entrano lì per appunto, a parte l'ENI, anche l'ENEL c'è dentro, vabbè, Poste Italiane, ci sono un sacco poi di grosse aziende che insomma collaborano diciamo alla realizzazione di questo piano perverso. Ma va detto anche che ci sono la Cassa Depositi e Prestiti, per il 2025 ha stanziato 500 milioni di euro a sostegno delle imprese italiane operative in Africa, e tra queste imprese c'è anche il terzo settore, perché comunque la colonizzazione va diciamo e anche la predazione delle risorse e l'occupazione dei territori si avviene attraverso l'esercito, attraverso l'industria, attraverso l'agroindustria, attraverso l'industria degli armamenti eccetera, ma avviene anche attraverso la manipolazione diciamo delle persone, delle popolazioni, e anche attraverso questi parti tra virgolette buone diciamo dei colonialisti, che poi legittimano di fatto le parti più cattive. kalean etengabe Mentre ascoltiamo Zarama, il loro pezzo era Biozak Sutak. Adesso ascoltiamo ancora delle tracce dal loro album Sinestesina. Sì, allora si diceva del discorso del ruolo, diciamo, del terzo settore o comunque e comunque dell'apparato educativo culturale, diciamo, della sua responsabilità. E, per introdurre il prossimo così contributo, diciamo, che è il contributo di un compagno navajo che purtroppo è scomparso, non è più in vita. E, inizio proprio da qui. Lui infatti ci parla. Allora, aspettate che vedo dove che lo trovo. Si parla del discorso, appunto, dell'indottrinamento capitalista. Lui dice: i collegi erano pieni di indottrinamento capitalista per assimilare forzatamente i bambini di Né nella società coloniale. Il percorso di studio era concepito con un insegnamento chiaro: per sfamare le nostre famiglie avevamo bisogno di un lavoro. Per avere un lavoro dovevamo essere formati. Per essere formati dovevamo obbedire. Non avere un lavoro significa essere poveri. Assumere altri lavoratori significa creare ricchezza. Creare ricchezza significa avere successo. Il processo di distruzione della collettività e dell'autosufficienza indigena è un processo continuo di assimilazione capitalista. Affamarci è ancora un'arma usata contro il nostro popolo. E qui appunto arriviamo alla questione. Allora, intanto quello che vi leggerò, così commenterò, è tratto da un libro che si intitola No Spiritual Surrender, Anarchia indigena in difesa del sacro, e sono è questa raccolta di scritti di Clay Benalli, militante per la liberazione del popolo navajo. Lui era anche avvocato, se non sbaglio, e poi era artista, musicista, artista visivo, insomma una personalità molto, sì, molto forte, molto poliedrica. E, allora, questo testo è stato editato in italiano a cura di Robin Book Gang nel 2025, e tra l'altro lo trovate anche nello spazio autogestito di Via De Rubeis a Udine. E, io ho scelto, perché appunto come collegamento, diciamo, con un po' l'argomento della serata, questo un suo contributo, un suo scritto sui deserti alimentari. Deserti alimentari, un progetto di violenza coloniale. È interessante anche il fatto che Clay Benalli ha scritto questo testo durante il Covid, cioè riferendosi al discorso della al periodo del Covid e a quello che all'impatto che ha avuto, diciamo, sulle comunità native il Covid. E lui ci dice: Diné Bikeya, che sarebbe la nazione navajo, ha affrontato e sopportato un tasso pro capite di casi di Covid-19 più alto di qualsiasi altro insediamento coloniale statunitense. Mentre questo virus respiratorio semina il caos in queste terre, i media mainstream hanno nuovamente consacrato la nostra gente come mascotte della povertà e della vittimizzazione. Le statistiche vengono sbandierate a gran voce per evocare la pietà coloniale. Circa il 33% della nostra popolazione non ha acqua corrente né elettricità. Viviamo in un deserto alimentare con 13 supermercati che servono quasi 200.000 residenti. Tra i Diné Bikeya il tasso di disoccupazione è del 50% circa. Sebbene questi dati non siano errati, la soluzione non è aumentare le raccolte fondi per i poveri indiani. E poi ci dice: le narrazioni disumanizzanti sono sempre state parte integrante dello scenario qui nell'arido sud-ovest. Inoltre, i politici della nazione Navajo impongono rigidi coprifuoco nei fine settimana e nel mentre proibiscono le riunioni cerimoniali e limitano le iniziative di mutuo soccorso indipendenti. Mentre le cosiddette città di frontiera delle riserve, notoriamente razziste come Gallup, New Mexico, si sbarazzano dei parenti infetti senza tetto e emanano Riot Act Orders per limitare l'afflusso di Diné che dipendono dalle scorte dei loro supermercati. Lo spettro dello scopo storico del sistema delle riserve incombe come un fantasma dimenticato che ci toglie il respiro aggrappandosi alle nostre ossa. Ciò che viene omesso dallo spettacolo febbrile del turismo catastrofico del Covid-19 è che queste statistiche sono dovute ai continui attacchi ai nostri stili di vita culturali, alla nostra autonomia e, per estensione, alla nostra collettività e autosufficienza. Ecco, e arriviamo quindi a questo discorso dei deserti alimentari. Ci dice Clebenalli: la nostra salute è stata compromessa da malattie legate all'alimentazione, imposta dagli attacchi coloniali ai nostri regimi alimentari e culturali. Dineh Bikeyan non era un deserto alimentare fino alla colonizzazione. Secondo un'associazione americana che si occupa di diabete, le persone con diabete hanno maggiori probabilità di sviluppare gravi complicazioni da Covid-19. In generale, le persone con diabete hanno maggiori probabilità di manifestare sintomi e complicazioni gravi se vengono infettate. Un dineh su tre è diabetico o prediabetico. In alcune regioni gli operatori sanitari hanno riferito di aver diagnosticato il diabete a un paziente su due. Poi ci parla di un rapporto sulla sovranità alimentare. Questo rapporto dice che il concetto di food desert della nazione Navajo è stato contestualizzato come un processo di colonialismo e capitalismo. Il rapporto identifica il deserto alimentare come un'area urbana o rurale priva di accesso a cibi freschi e sani a prezzi accessibili, mentre i deserti alimentari sono privi di cibo sano e accessibile. Cibi malsani e altamente trasformati sono spesso facilmente reperibili. I deserti alimentari sono associati ad alti tassi di malattie legate all'alimentazione. Per le comunità rurali, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha definito il deserto alimentare rurale come regioni con popolazioni a basso reddito, con il supermercato più vicino a più di 20 miglia di distanza e con le persone aventi un accesso limitato ai veicoli. Le persone dineh con un reddito limitato o nullo hanno una scelta alimentare limitata, e poiché i cibi sani e freschi hanno un costo maggiore, le persone con risorse finanziarie limitate spesso non hanno altra scelta che acquistare cibi a basso costo, altamente processati e ipercalorici, che portano all'insorgenza di malattie legate all'alimentazione. E quindi ci dice Clebenalli che le nostre terre natie sono diventate un deserto alimentare. Questi problemi includono livelli epidemici di malattie legate all'alimentazione, diabete, obesità, insufficienza alimentare, cioè anche sottoalimentazione, alti tassi di fame, significative perdite di dollari Navajo verso le città di confine, disintegrazione degli stili di vita di Né e del Ké, che è l'antico sistema di parentela. Appunto, è una parentela che non è una parentela come possiamo intenderla familiare, diciamo di sangue per così dire, ma è una parentela, un legame vitale tra tutti gli esseri viventi, quindi tra tutti gli esseri umani ma anche tra gli altri esseri viventi. E questo allora, e poi però ma magari potremmo mettere un pezzo musicale di Clebenalli, così, e poi continuiamo con così delle riflessioni storiche su come si è arrivati a questo. Are we willing to go? Can't pain. We can't sustain the unsustainable. Sustainable. Allora, dicevo, in questo articolo, diciamo, in questo capitolo, Club Enaldi parla anche un po' della storia, come si è arrivati a questo, no? A questo deserto alimentare, ma anche a questa colonizzazione senza, sì, che è come un punto di non ritorno. Ci dice: dopo aver affrontato una feroce resistenza di Ne a metà del XIX secolo, le truppe statunitensi invasero e attaccarono il De Kelly Canyon nel cuore di Diné Bikeya, impiegando la tattica della tabula rasa. Parlavamo anche prima di tabula rasa rispetto alla Palestina, bruciando case e ogni campo e frutteto che incontrarono. Il colonnello statunitense Kit Carson guidò una campagna di terrore per costringere Diné a intraprendere quella che viene chiamata la lunga marcia verso un campo di concentramento chiamato Fort Sumner, a centinaia di chilometri di distanza nel New Mexico orientale. Il rapporto afferma: la campagna della terra bruciata di Carson, che includeva l'uccisione del bestiame, l'incendio di campi e frutteti e la distruzione delle fonti d'acqua, costrinse molti di Ne affamati alla resa. A coloro che non erano stati catturati giunse la notizia che il cibo veniva distribuito a Fort Defiance. Molte famiglie scelsero di recarsi al forte per placare la fame e discutere di pace, ignare dei piani di Carlton per il trasferimento. Una volta arrivati al forte, i Diné scoprirono di non poter tornare alle loro case ed erano prigionieri dell'esercito statunitense. A causa dei raccolti andati male, delle restrizioni alla caccia e della mancanza di piante autoctone a loro familiari, i Diné dovettero dipendere dall'esercito statunitense per il loro nutrimento, segnando una svolta fondamentale nella storia dell'alimentazione e dell'autosufficienza di Diné. Le razioni alimentari erano inadeguate ed estremamente povere di valore nutrizionale, essendo costituite principalmente da carne di maiale salata, bovini, farina, sale, zucchero, caffè e strutto. Quando i colonizzatori costruirono forti militari, mentre conducevano guerre brutali contro i popoli indigeni, fornirono anche razioni come mezzo di pacificazione e assimilazione. I programmi di razionamento alimentare furono uno strumento di colonizzazione e si affiancarono alle politiche di assimilazione per indebolire le società indigene e sottometterle al controllo coloniale. Una volta che le popolazioni indigene divennero dipendenti da queste razioni alimentari, i funzionari governativi le manipolarono deliberatamente, determinando dove e quando il cibo sarebbe stato distribuito, limitando il tipo e la quantità di cibo distribuito e determinando a chi sarebbero stati distribuiti. La fame, quindi, fu trasformata in un'arma materiale e politica. La strategia delle società colonizzatrici era quella di eliminare i bufali, le pecore, i campi di mais, le fonti d'acqua e tutto ciò che nutriva le popolazioni indigene per indebolire la nostra autonomia e creare dipendenza. Tuttavia la liberazione e la ridistribuzione delle risorse non erano estranee ai nostri antenati, che saccheggiarono efficacemente le scorte dei colonizzatori e rasero al suolo i loro forti. Ma chiaramente le strategie della terra bruciata si rivelarono devastanti. A partire dagli anni 30, il Bureau of Indian Affairs ordinò la riduzione delle mandrie di bestiame di Né. I funzionari di questo ufficio massacrarono le mandrie e le lasciarono marcire, il tutto davanti agli occhi delle famiglie di Né. Alcune mandrie furono persino spinte giù dalle scogliere, mentre altre furono cosparse di cherosene e bruciate vive. Questa uccisione di massa di animali compromise gravemente l'autosufficienza di Né. Sebbene la giustificazione politica per questa drastica riduzione del bestiame fosse quella di mitigare l'erosione del suolo, il rapporto illustra come altri fattori, come la desertificazione e il deterioramento dei pascoli, come il cambiamento climatico, la siccità periodica, l'invasione di vegetazione esotica e l'abbassamento della falda freatica, fossero i problemi principali. E arriviamo agli anni 60. Nel 1968 apre nella nazione Navajo il primo negozio di alimentari. Allora, che cosa succede con l'apertura di questo negozio di alimentari? Allora, pian piano si assiste al declino dei cibi tradizionali, dei cibi di Né. E negli anni 80 cominciano a essere distribuite in maniera massiva bibite gassate e zuccherate, pane e latte acquistati al supermercato diventano comuni nella dieta Navajo, mentre pane fritto e tortilla, spatate, carne di montone e caffè continuavano a essere alimenti base. Sebbene molte famiglie Navajo continuassero a dedicarsi all'agricoltura, mais, zucca e melone erano le colture più coltivate, gli orti erano generalmente piccoli e non sembravano più rappresentare una fonte primaria di cibo per molte famiglie. Oltre ai cambiamenti alimentari, il cambiamento nella vita e nella società di Né includeva anche la fine dell'autosufficienza, delle conoscenze di Né, della famiglia e della comunità e il distacco dalla terra. Questi cambiamenti non avvennero per caso, ma furono favoriti da una serie di interventi e politiche americane, il processo di colonizzazione. In particolare l'espulsione forzata, la riduzione del bestiame, i collegi, i programmi di trasferimento e distribuzione alimentare, insieme al passaggio da stili di vita di sussistenza a una società basata su salario e all'integrazione del capitalismo americano. Prima degli sforzi di colonizzazione americani, il popolo di Né operava con un regime alimentare che non solo era parte integrante della nostra cultura, ma in cui producevano e raccoglievano attivamente il cibo necessario per nutrire le loro comunità. Ciò significa che il popolo di Né non dipendeva da governi e sistemi esterni per il cibo. E poi, come nota finale dolente, già diciamo quando parla dell'impatto dell'inquinamento a causa dell'industria estrattivista anche in quella che adesso è l'Arizona e che appunto è la nazione Navajo, carbone ma anche petrolio e anche come si dice tipo l'uranio, quindi radioattivi, ecco, e anche cioè, ci dice appunto Cleb e Nalli che il concetto di nazione Navajo, cioè con dei rappresentanti, una specie di autorità nazionale Navajo nel territorio, viene creato negli anni 20 proprio del Novecento, proprio per permettere, diciamo, di stilare questi contratti di sfruttamento del territorio. Quindi qui sta anche l'inghippo, la fregatura colossale, appunto, di individuare una classe dirigente, tra virgolette, nativa, che si fa carico della rappresentanza della popolazione, ma che non, in realtà non ha alcuna rappresentanza, cioè si è autoproclamata rappresentante, e in questa maniera qua permette, diciamo, l'entrismo del capitalismo in ogni, anche nelle fibre più sensibili della popolazione. E appunto arriviamo a questo. Come al solito, il governo coloniale e i politici Navajo hanno approfondito il processo di assimilazione attraverso i loro sforzi per riformare la questione del deserto alimentare, avviando un'iniziativa agricola che acquista sementi da Syngenta e Monsanto e utilizzando incentivi fiscali per rendere il cibo sano più economico, aggravando la dipendenza del popolo Diné dal cibo mercificato. E il Consiglio Tribale Navajo ha avviato un'iniziativa agricola su larga scala, che l'ha chiamata Navajo Agricultural Product Industry. L'azienda agricola ha dichiarato di coltivare semi di mais da ibrido genetico acquistato da Pioneer Seed Company, Syngenta e Monsanto. E nel 2014, nel tentativo di frenare l'epidemia di diabete, il Consiglio della Nazione Navajo ha emanato una legge che ha aumentato l'imposta sulle vendite di cibo spazzatura a basso costo venduto nella Nazione Navajo, e un'altra che ha eliminato l'imposta sulle vendite di frutta e verdura fresca. Quindi, in questo modo, appunto, ha aumentato la pressione economica, tassando, diciamo, il cibo spazzatura su chi non può mangiare altro che cibo spazzatura, quindi impoverendo ulteriormente i nativi, e inoltre ha aperto le casse, diciamo, a questi, appunto, di Syngenta e Monsanto, eccetera, che monopolizzano la produzione di frutta e verdura fresca con le loro con i loro brevetti, con le loro sementi brevettati. Bene, cioè bene, malissimo, appunto, quindi ritorna, insomma, Club Enali ritorna con questo discorso del che non bisogna accettare, se è necessario non accettare assolutamente deleghe, rappresentanze, che qualcun altro curi gli interessi, ma rimanere, praticare appunto l'autodeterminazione, l'autoproduzione e la solidarietà. E ritornando appunto al periodo in cui Clea ha scritto questo articolo su deserti alimentari, appunto lui ci ricorda come la solidarietà e la reciprocità e la resistenza indigena abbia salvato le vite, insomma, anche in periodo di pandemia. E allora, siamo agli sgoccioli, forse io ho parlato anche troppo in quest'ultimo intervento. Comunque, volevamo concludere questo intervento con un pezzo di Clea Benalli, però prima volevo solo dire una cosa a proposito di deportazioni. Prima parlavamo della lingua, della neolingua israeliana, cioè c'è anche questo discorso del progetto di campo di enorme campo di concentramento a Gaza, che viene rinominato città umanitaria. Praticamente il ministro della difesa Israel Katz ha un'idea: vuole costruire una città umanitaria, così la definisce, nella striscia di Gaza. Si tratta di un'area nel distretto di Rafah, all'interno della quale circa 600.000 palestinesi dovranno essere concentrati in delle tende e ricevere aiuti umanitari. Hamas non sarà coinvolta, chiaramente, lo spauracchio di Hamas, cioè il capro espiatorio di Hamas, non sarà coinvolta in questo approvvigionamento. In parallelo dovrà essere costruito un meccanismo per favorire le migrazioni dalla striscia di Gaza. Le persone che si trasferiranno in questa città umanitaria verranno severamente esaminate. Successivamente verrà loro interdetto di lasciare la città, a meno che non vogliano emigrare volontariamente. Ecco, mi pare che, insomma, non serve neanche aggiungere parole alla similitudine con ciò che è avvenuto a metà del XIX secolo nella nazione Navajo, e non solo, insomma, tra i nativi dell'America, è palese. Boh, mettiamo magari appunto il pezzo. Songs of the sun for all those whose breath was stolen, whose lives were taken away, who learned too late. And now we sing again to the house of the dawn. There are no words that can right this wrong. And now this land breathes pain. Nothing grows that doesn't carry the trauma that we weep, that you sow. Now we sing again to the house of the dawn. Now there are no words that can right this wrong. Same power of blood and bones, of poison, stolen homes, of genocide, mutilated ghosts, fierce heartsly buried. E adesso stavamo ascoltando Maria Terremoto con il suo pezzo Miraita. Andiamo per un altro cambio. Bene, per questo giovedì possiamo anche salutarci. Volevamo lasciarvi i nostri contatti prima di risentirci la prossima volta, il prossimo giovedì. La nostra email è liberetutti@autistiche.org. La casella postale per lettere a vecchio stampo è Associazione Senza Sbarre, CP 129 34 121 Trieste. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, codice postale 129 34 121 Trieste. Potete riascoltare la puntata sul blog come tutte le altre. Il nome del blog è zardinsmagneticsradio.noblogs.org o sul canale Telegram Zardins Magnetics. Inoltre volevamo ricordare per i più assidui appassionati che possono riascoltarci se non ci hanno sentiti o se vogliono risentirci su Radio Eustachio e su Radiazione. Bene, dall'assemblea contro il carcere è quasi tutto, dall'assemblea permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste è quasi tutto. Volevamo solo dirvi che ci rivediamo fra un po'. La prossima giovedì non ci saremo e ci lasciamo per un po' in pace. E ora musica. Mandi. Ha pasado mucho tiempo, lo hemos intentado a buenas. No dejas más opciones, dinos que nos queda.